Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di un rivelatore di consumi e stili di vita molto efficace, il frigorifero. Parliamo poi di crisi e promozioni e, per il focus sui trend, di retail innovativo. Prima, come sempre, le notizie e curiosità della settimana. Costa $50 e si può comprare solo online. È l'erede del Tamagotchi, il cucciolo giocattolo virtuale, bisognoso di coccole e attenzioni. Si chiama Tutuki Bako, una scatoletta con uno schermo e un foro in cui inserire il dito per interagire direttamente con il cucciolo, accarezzarlo, punzecchiarlo o farlo arrabbiare. Ha aperto a Beirut il primo Facebook Pub del mondo. Creato per far incontrare i frequentatori della community, organizza anche serate a tema e speed date. Collarino in vernice con cuore di Swarovski, trasportino in ecopelle e guinzaglio, il tutto contrassegnato dal logo I Love Dogs. È la nuova linea di accessori ad edizione limitata dedicata a Fido, realizzata dal marchio Vic Mathieu. Il ricavato delle vendite andrà in beneficenza alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Dopo anni di mistero, si svela la stilista fantasma della griff Norma Luisa, amata dalle star. Giorgiana Zappieri, 31 anni, ha deciso di uscire allo scoperto perché, dice, lo schermo che mi aveva protetto mi stava soffocando. In Italia, internet è donna. Le italiane si connettono alla rete molto di più degli uomini. Il 56% contro il 44%, un divario che non ha eguali in nessun'altra grande economia del mondo. Si chiama Help Me Darwin. È un set d'arredamento in cartone pieghevole che si trasporta dentro una borsa. Permette di creare una scrivania, due sgabelli e un letto. Utile in occasione di traslochi e permanenze temporanee in case vuote. La borsa della spesa. I consumi, si sa, dicono molto della società che ci circonda, sono una straordinaria chiave di lettura con cui ogni settimana noi del resto cerchiamo di esplorare abitudini, stili di vita e strategie di impresa. Uno strumento importante in questo senso è il paniere dell'Istat, l'elenco dei prodotti che servono a calcolare l'inflazione, viene aggiornato ogni anno e riflette le trasformazioni della società. Ma un altro strumento, più personale, legato all'individuo, non alla collettività, è senza dubbio il frigorifero. Il suo contenuto dice molto del suo proprietario. Dal frigorifero semideserto del carrierista sempre fuori a cena, a quello straripante per le famiglie numerose, da quello pieno di tupperware di cibo pronto della mamma del bamboccione, a quello stracolmo di tavolette di cioccolata della single in cerca di affetto. Frigorifero come specchio della vita quotidiana. Basta aprirne uno per capire chi abbiamo davanti. E oggi online possiamo esplorare quelli di tutto il mondo. Fridgewatcher.com, traduzione letterale osservatore di frigo, sottotitolo evocativo We are what we eat, cioè siamo quello che mangiamo, è un sito interamente dedicato a immagini di frigoriferi. Chiunque può spedire le fotografie del proprio elettrodomestico e del suo contenuto. Agli altri utenti, il compito di ricostruire le personalità dei proprietari. Salutisti, golosi, vegetariani, disordinati. Operazione analoga a quella di una giovane fotografa milanese, Ambra Zeni, che alle foto dei frigoriferi ha affiancato quelle dei relativi proprietari e ne ha fatto una mostra. Famiglia che vai, frigo che trovi. Ne è nata una vera e propria indagine sociologica. Sicuramente dal frigorifero si capiva veramente tanto, ovvero io dopo qualche frigorifero che analizzavo già potevo rendermi conto se era una persona che comunque dedicava tempo alla cucina, aveva tempo da passare a casa o se invece aveva una vita frenetica, perché comunque la ricchezza del frigorifero, il tipo di cibo che vedevi all'interno, quindi se era un cibo da una mangiata e via al volo oppure delle cose più ricche da cucinare, si capisce molto, forse non sull'intimo della persona, ma sicuramente sul suo stile di vita e il suo ritmo. E c'è anche chi nel frigorifero è andato a caccia di mostri. Sono quelli nascosti dentro merendine, piatti pronti, salumi, bibite, yogurt e sughi pronti. È Stefania Cecchetti, autrice del libro edito da Terre di Mezzo, I mostri nel mio frigorifero. Ho scoperto meno di quello che mi aspettavo di scoprire, nel senso che io sono andata a caccia di sostanze misteriose, additivi nocivi e cose di questo genere, e poi piano piano ho capito che il vero nemico che si nasconde nei nostri frigoriferi è la disinformazione, nel senso che molto spesso noi ignoriamo delle cose che sono alla nostra portata. Per esempio, molti non sanno che nelle etichette la lista degli ingredienti è data in ordine decrescente di peso, per cui semplicemente leggendo di che cosa sono fatti i nostri cibi possiamo capire quale cibo è di qualità e quale no. Se noi in una merendina leggiamo che la farina è al terzo posto e viene dopo lo zucchero e i grassi, ci possiamo subito rendere conto che si tratta di un prodotto di scarsa qualità, perché tutte le mamme lo sanno: per fare un buon dolce il primo ingrediente è la farina, naturalmente. Uno dei grossi nemici del cibo confezionato oggi è la qualità della materia prima, mentre appunto negli anni passati dovevamo guardarci di più dagli additivi e dalle sostanze come coloranti, conservanti, sulle quali ancora gli studi erano pochi e sulle quali ancora le leggi poco ci proteggevano. Oggi il grande nemico sta appunto nella materia prima di partenza. Cambiamo argomento con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Parliamo di crisi e promozioni. La crisi economica morde il freno e gli operatori del retail inventano nuove soluzioni per parlare in modo conveniente di convenienza, che non necessariamente significa prezzi bassi o low cost. In Italia la catena di discount Lidl ha acquistato doppie pagine di quotidiani per ribadire che è ora di ribassi definitivi, ma che i suoi prodotti sono selezionati in modo da rispettare l'ottima qualità al prezzo più conveniente. Seguono sconti ottenuti grazie a un sistema logistico ottimizzato ed efficiente. Esselunga ha proposto una lista bloccata della spesa con 24 prodotti a 20 euro. Coop riduce il prezzo dei suoi prodotti a marchio anche del 10%. Carrefour propone una comparazione di convenienza direttamente sugli scaffali, avvicinando primi prezzi, prodotti a marchio e prodotti di marca della stessa categoria merceologica, dove ovviamente risultano vincenti i primi due, i suoi. La catena di arredamento svedese IKEA invita a visionare i suoi mobili con la formula «compri oggi, nei mesi di novembre e dicembre, e paghi a Pasqua del 2009». All'estero, ci sembra, stanno prendendo provvedimenti più ragionati e strutturali. La catena inglese Tesco ha rivoluzionato i suoi layout e il cliente, entrando nei suoi supermercati, incappa subito in un reparto discount che si propone di diventare leader nel segmento. In Francia, Yves Saint Laurent ha riscritto invece il formato della sua borsa Downtown in un formato più piccolo, così che gli amanti del suo stile possono scegliere se pagare 1.400 o 695 euro. Sempre lo stesso stilista ha lanciato una linea di accessori quasi di primo prezzo, partendo da 70 euro. Lo stilista Karl Lagerfeld ha addirittura creato una nuova linea, chiamata K, con prezzi che, rispetto a quelli delle sue collezioni, si possono definire discount senza però abdicare la qualità dei materiali. Se la crisi economica non fosse così grave, verrebbe proprio voglia di sussurrare «Viva la crisi!». Mai più senza. È dedicato ai più piccoli il pezzo cult della settimana a cura di Giulia Crivelli. Nessuno ha mai viaggiato tanto in aereo come gli adolescenti di oggi, complici naturalmente le compagnie aeree low cost che permettono di visitare le capitali europee al costo di un biglietto del cinema. Ma gli adolescenti di domani voleranno ancora di più, visto che presto ci saranno i low cost intercontinentali. Meglio abituarli subito allora a trasportare, o meglio trascinare, i bagagli in giro per aeroporti, strade, alberghi. È nata anche per questo Tranqui, la prima valigia da cavalcare per bambini. Ha quattro ruote, è coloratissima e disponibile in molte versioni. La più nuova è quella pezzata che ricorda una mucca. Indicata per bambini dai 3 anni in su, Tranqui ha una capacità di 18 litri, la metà circa di un trolley medio da adulto, e pesa 1,5 kg. Se la pigrizia dei bambini prende il sopravvento, i genitori possono usare la cinghia per trainare la valigia, magari cavalcata dal figlio. La cosa più carina, la cintura di sicurezza all'interno, pensata per l'orsacchiotto o qualsiasi altro compagno di viaggio di peluche. Tranqui costa dai 30 ai 50 euro, a seconda delle versioni, e su internet si può acquistare sia dal produttore inglese sia da alcuni importatori italiani. Basta digitare Tranqui, scritto Trunki, su Google e avrete solo l'imbarazzo della scelta. Essere e avere. Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna, Patrizia ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta la seconda parte di Essere e Avere. Oggi parliamo della rivoluzione che stanno attraversando i negozi, nello spazio fisico ma anche nel formato e nelle formule di vendita, dalla diffusione dei concept store, il punto vendita esperienziale per antonomasia, ai temporary e ai moving shop, fino ai cosiddetti negozi ibridi, la nuova generazione di spazi caratterizzata da un'offerta trasversale nei prodotti e nei servizi. Parliamo insomma di retail innovativo. Patrizia. I concept store, ricordiamo, sono la dicitura che si usa per parlare di punti vendita tecnicamente eterogenei per gestione, per superficie e merceologia. Quindi con un'offerta che può riunire prodotti apparentemente incompatibili o anche rigorosamente monomarca, ma la caratteristica differenziata è appunto il fatto di essere dei luoghi di sperimentazione, di essere in realtà in movimento, luoghi da esplorare. Mentre diciamo in un centro commerciale sono strategici prezzo, posizionamento, profondità, assortimento, in un concept store, per capirci, lo sono l'atmosfera, la storia, la narrazione, le merci, ma soprattutto quello che succede lì, cioè l'esperienza che faccio in quel luogo. Infatti i concept store appartengono all'era del cosiddetto marketing esperienziale. Allora, il retail nelle sue forme più evolute, che sono molteplici, si esprime appunto sempre in maniera diversa, in continuo cambiamento, e oggi vorrei sottolineare quanto il retail stia contaminando in termini proprio di innovazioni, di servizi, di format, di modalità, altri spazi. E vorrei fare due esempi, uno istituzionale, una banca, e uno privato, uno studio dentistico. Allora, il gruppo bancario è la Umpqua Bank, dal nome dei nativi indiani in Oregon, quindi una banca americana, che sta sperimentando con successo un progetto fortemente innovativo in termini proprio di legame con il territorio. Le filiali sono delle vere e proprie aree retail, cioè offrono prodotti e servizi certamente finanziari e assicurativi, ma in un'atmosfera da coffee bar. Vendono raffinati oggetti e accessori, spesso di fornitori locali, oltre che prodotti proprio a marchio Umpqua. Il design è fresco e accattivante, l'architettura è quasi avveniristica, e quindi a tutti gli effetti si potrebbe definire un flagship store che valorizza lo spazio a tal punto da spingere i clienti a entrare e stare in quel luogo, soffermarsi in banca piuttosto che utilizzare gli sportelli automatici anche per le operazioni più banali, un prelievo o cose più veloci. L'ingresso ricorda la hall di un hotel più che un istituto finanziario e si affaccia sull'area un internet caffè con una connessione wireless. Insomma, l'innovazione del concept si è sviluppata in parallelo a una forte segmentazione dell'offerta di pacchetti rivolti a target specifici, quindi giovani, terza età, che superano e vanno molto al di là della struttura dei tipici servizi bancari, quindi includendo anche serate gratuite al cinema, corsi yoga, corsi di perfezionamento per lavori casalinghi, eccetera. Ultimo elemento di grande interesse: la banca rimane aperta e si trasforma in uno spazio anche serale, quindi vivo oltre l'orario di chiusura, per incontri legati sia all'ambito finanziario che ad eventi culturali. L'altro caso di Berlino molto interessante è uno studio dentistico che si definisce tra l'altro la prima dental spa in Germania, 1000 metri quadrati, anche qui un'architettura molto interessante, il motto è qui niente fa male, l'entrata è una lounge con camino come sala d'attesa, grande terrazza dove d'estate si può anche prendere il sole, bar con bevande e servizio multimediale. Voglio sottolineare il tema dell'arredo sonoro, mutuato appunto dalle forme più evolute del retail. Si ascolta musica, si possono vedere anche DVD, non è solo l'intrattenimento nel tempo d'attesa preseduta, ma anche durante la seduta dentistica, cioè questo ascolto musicale che è a un tempo un arredo sonoro e ha anche una funzione, diciamo, terapeutica. L'arte è uno dei terreni su cui si stanno maggiormente sperimentando queste nuove formule di spazi e di vendita. Lo testimonia uno dei progetti più all'avanguardia. Sentiamo quale. Fondere una galleria d'arte e un centro commerciale. Questo è l'obiettivo del K11, primo art mall al mondo che sorgerà l'anno prossimo a Hong Kong. Albergo a 5 stelle, residence di lusso, negozi, ristoranti e una collezione permanente di opere che comprenderà sculture, quadri e installazioni multimediali. Inoltre, verranno regolarmente organizzate retrospettive di famosi creativi. Più di 10 display sui diversi piani permetteranno a chi fa shopping di godere delle opere d'arte mentre si passa da un negozio all'altro. Patrizia, prima le librerie, poi i musei e le gallerie d'arte. La cultura si presta più di altri settori a queste contaminazioni. Perché? Per una sorta di accostamento sacro-profano? Ma dunque, cambiano i significati e le abitudini di consumo, l'abbiamo ripetuto più volte. Il consumo è sempre più vissuto come un percorso esperienziale e di conoscenza di nuovi mondi. Quindi gli store, i negozi, i luoghi di consumo, per come ne parliamo oggi, vendono esperienze oltre alle merci. Naturalmente la cultura, diciamo alta e bassa, quindi arte, libri, ma anche videogiochi, fumetto, è un bel serbatoio da cui pescare per trasformare appunto il luogo di consumo in un generatore di idee, in una piattaforma relazionale, come chiama il professor Gianpaolo Fabris il nuovo negozio, in cui appunto l'esperienza è essa stessa un bene oggetto di produzione e di scambio e diventa questo nuovo luogo un medium comunicativo del brand. Porterei un esempio di Stoccolma. Grandpa, una catena di negozi che è nata un paio d'anni fa, è un concept store e fin qui niente di nuovo, offre prodotti di designer emergenti, ha all'interno un bar, ha un'area con complementi d'arredo e accessori sempre tematizzata. Quello che rende questa catena diversa e innovativa è quello che succede in termini di eventi, appunto di esperienze, cioè la gestione del rapporto con i clienti frequentatori. Regolarmente i negozi Grandpa organizzano feste, vernissage, concerti dal vivo, readings, quindi anche cose molto impegnate oltre che divertenti che rientrano nella categoria entertainment. Il sito offre molto più che un normale negozio online. Chi frequenta Grandpa non si sente, come dicono quelli che ne parlano, una carta di credito che cammina, ma si sente dentro un luogo in cui essere, in cui pensare e soprattutto dentro una relazione che diventa amicale. Lo sapete che il 70% delle decisioni di acquisto avvengono nel punto vendita? Solo una volta nel negozio, cioè decidiamo veramente che cosa acquistare, cambiando magari idea rispetto a quanto avevamo ipotizzato. Per questo motivo esiste lo shopper marketing, il marketing che studia il processo d'acquisto nel punto vendita. Per saperne di più abbiamo in collegamento Adriano Aletti di Saatchi & Saatchi X Italia, la divisione di Saatchi & Saatchi dedicata allo shopper marketing. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. In poche parole, che cos'è innanzitutto lo shopper marketing e come funziona? Ma guardi, in due parole, lo shopper marketing significa parlare alla persona che sta facendo un acquisto, quindi significa cercare di capire che cos'è importante per questa persona e cercare di comunicare dei messaggi che possano influenzare e facilitare il processo d'acquisto. Quindi l'assunto di base è che shopper e consumatori sono due cose diverse. Dove interviene principalmente? Nella morfologia del negozio, nel percorso di vendita, negli stimoli esperienziali, per così dire? Quindi ad esempio in quelli sensoriali, olfattivi. Nella fase di preparazione magari lavora in sinergia con internet, con la pubblicità. Nella fase del punto vendita interviene, come diceva lei, nella morfologia del punto vendita, nel modo in cui i prodotti vengono esposti, nel modo in cui i prodotti vengono accostati, nel modo in cui i prodotti vengono spiegati e presentati e naturalmente lo shopper marketing include anche l'aspetto del prezzo e delle promozioni perché hanno un ruolo fondamentale nel processo d'acquisto. Poi c'è la fase del post acquisto, dove lo shopper marketing interviene fornendo dei motivi di fidelizzazione e fornendo dei motivi di riacquisto. Dal vostro particolare osservatorio, quali sono le tendenze emergenti nel retail? È molto importante lavorare sulla possibilità di far provare il prodotto ai consumatori. Io penso a tutti gli articoli sportivi, ci sono oggi dei negozi, soprattutto all'estero, ad esempio una giacca che è pensata per essere portata a temperature molto basse, allora ti fanno entrare in una cella frigorifera e te la fanno provare, una scarpa impermeabile, farla vedere dentro in un acquario. Queste sono cose che sono state fatte, che comunicano in modo piuttosto creativo le performance di prodotto, piuttosto che semplicemente scrivere e dire impermeabile oppure resiste al freddo. Grazie ad Adriano Aletti per essere stato con noi. Ringrazio voi, arrivederci, buongiorno. Cosa c'è di nuovo a Tokyo, una delle capitali all'avanguardia nelle nuove formule di negozio e di vendita? Ce lo racconta come sempre una delle nostre esperte di Memi, laboratorio di trend watching internazionale. Elena Marinoni, bentornata. Buongiorno, sì, oggi accendiamo un riflettore su Rankin, una catena di negozi giapponese che basa il suo assortimento merceologico sulla classifica dei prodotti più venduti o votati dai consumatori giapponesi, ognuno nella sua categoria. Si va dai sughi in scatola, per dire ai cellulari, dai prodotti di cosmesi alla cartoleria. Le classifiche di gradimento ricavate dai dati di vendita che arrivano dai grandi department store di Tokyo o da anche ricerche indipendenti vengono aggiornate ogni settimana. Le merci che non rientrano più tra i primi 5 o 10 più venduti nel resto di Tokyo vengono quindi immediatamente sostituiti per fare spazio alla next big thing. Potremmo definirla una nuova forma di consumocrazia che si esprime attraverso il nuovo modello del negozio Hit Parade. Grazie Elena. Patrizia, in conclusione, come sarà il negozio del futuro, o meglio, come non sarà più il negozio del futuro? Ma certamente non sarà più un neutro contenitore di merci. Più sarà capace di trasformarsi, come dicevo, in un mondo, in una storia, in una narrazione che affascina, più saprà reincantare, il consumatore che cerca esperienze immersive, emozioni, relazioni, benessere, anche informazioni e, in ultima analisi, bellezza. Finisce qui anche questa puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Vi aspetto ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.